cosa volete che vi canti, amici cari? Ora che le parole ci dicon di pesare, se devo dire il vero di cantare non mi sento oggi, non infuria la bufera e nemmeno fischia il vento. I giorni sono tristi, le ore sono amare, le parole non si possono pesare. Le parole sono pietre dei poveri e gli sfruttati, le parole sono pietre contro i vostri carri armati. Oggi come ieri si ripete la storia italiana, ieri Piazza Fontana coi Dantoni Tarantelli, oggi ancora oggi Marco Biagi. Era nell'aria annunciata, preparata, preordinata, puntuale la provocazione terroristica è scattata. Chi la mano assassina armato ha guidato, cinico sul muro ha poi scritto obiettivo centrato. Del professore Biagi, senza protezione, in alto sapevano tutto, ha lasciato che la famiglia piombasse nel lutto. Come D'Antona, consulente al Ministero del Lavoro, Marco Biagi era di loro. La sua conoscenza il lor signore vi ha prestato, ma lor lo hanno lasciato solo a morire ammazzato. Cosa volete che vi canti, oh brava gente, se non il dolore che ogni umano sente? Canto la rabbia, l'indignazione di chi sente soffiare il vento della reazione, e sicuramente posso dire che non è la lotta per i diritti la matrice di questi delitti. Canto di un assassino annunciato, delle verità nascoste e depistate, del dolor di moglie e figli comportato, del rifiuto al funerale dello Stato. Un copione tragico mai abbandonato, per fermare la lotta del proletariato. La lezione non l'hanno imparata, che la lotta popolare non può essere fermata. La unione e la mobilitazione respingeranno la provocazione. Sviluppiamo forte la lotta per i diritti e la libertà, e il ricatto terroristico no, non passerà. Le parole non si possono pesare, le parole non si devono pesare, le parole sono pietre dei poveri gli sfruttati, le parole sono pietre contro i vostri carri armati.